Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben ritrovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Torniamo ad alcuni giorni di distanza dall'annuncio sul provvedimento forse più clamoroso, che tocca più persone, preso dal governo Renzi. Ne vedremo gli effetti con la busta paga del mese di maggio, meglio lo vedranno tutti coloro che hanno uno stipendio fino a 1.500 euro netti al mese, 25.000 euro all'anno lordi circa. E sono i 10 miliardi di riduzione del fiscale, tradotto circa 80 euro in più al mese, un migliaio di euro in più all'anno. Cosa dici? È quanto ci si aspettava, che anche in altri appuntamenti noi abbiamo già detto, finalmente è stato fatto, si poteva fare di più, di meno? Sì, come annunciato, amico, è un intervento serio che sicuramente anche noi aspettavamo da molto tempo come associazione dei consumatori, perché certamente in questo momento c'è una grande esigenza di dover rilanciare i consumi. Ed è anche vero che questo è un pacchetto che ha varato Renzi, è un pacchetto molto importante anche per l'occupazione, perché per la prima volta ci sono anche, chiamiamoli, degli incentivi volti alle aziende che assumono giovani di età inferiore ai 25 anni, che per 3 anni praticamente saranno esposti a forme di licenziamento con un'abolizione dell'articolo 18, ma che certamente, a detta di qualcun altro, a qualsiasi condizione, ma purché vengano assunti, quindi tutto può andare bene. Nel merito delle manovre che Renzi ha approvato, che dopo magari qualcuno ne vedremo in dettaglio, certamente andare ad incidere sul reddito netto sicuramente una manovra molto importante, perché come detto in questo momento c'è bisogno di rilanciare i consumi. È anche vero che comunque qua forse anche un po' lo contestiamo un po' la manovra, il fatto che comunque è una manovra rivolta solamente a chi prende un certo reddito, ma che in maniera proporzionale non va a incidere a nessun altro, né nei confronti dei pensionati né di chi magari per esempio prende 1.600 euro. Non c'è una proporzionalità che va a 80, 50, 40, 30, non so, sotto i 50.000 euro, è destinata solo a loro. È curioso come questa viene fatta in un periodo che va in vigore a regime a maggio, un periodo in cui si andrà alle europee, quindi speriamo che sia una manovra concreta e non sia una manovra fatta a fini propagandistici in previsione di quelle che sono delle elezioni molto importanti. Beh, sai, posso aggiungere, chi lo stipendio di maggio lo prende all'inizio di giugno ormai avrà già votato, quindi probabilmente sono effetti relativi. Anche chi lo prende il 27 sarà comunque dopo le elezioni, che sono il 25, quindi forse questa è un po' pretestuosa come motivazione. Sì, sono motivazioni che vengono lette sui giornali in questi giorni, di cui qualunque cerca un po' di cavalcarla, però certo è che sicuramente è una manovra di grande effetto, che certamente se ne sta parlando molto negli ambienti del lavoro. Comunque, rispetto a quelle che sono state tutte le manovre fatte negli anni precedenti, piuttosto che di manovra ad una tantum, veramente noi siamo nel complesso abbastanza soddisfatti, ma lo siamo anche perché, come detto, si guarda molto anche i giovani e si dà la possibilità a questi giovani di essere, magari sì, rinunciando a qualche forma di tutela, perché rispetto ai 40 contratti che ci sono di ingresso oggi se ne vuole proporre uno unico, però è anche vero che i giovani dovendo farsi un po' la gavetta possono anche rischiare di stare 3 anni un po' in balia di quelle che sono le strategie aziendali che chiunque può adottare, però certamente è una possibilità in più che hanno per potersi affermare lavoro rispetto a quelle di oggi, che sostanzialmente non ce ne sono e mancano qualsiasi forma di incentivi all'assunzione. Torniamo alla gradualità di questi soldi in più in busta paga. Un conto è chi prende 1.450 e arriva a 1.530 circa, un conto è chi prende 900, cioè questi 80 euro hanno un peso diverso, credo. hanno un peso molto diverso. Certamente più si va verso il basso, più diventa significativo, perché certamente 80 euro per chi prende 900 euro diventano quasi 10%, viceversa su 1500 diventano circa un 5%. Però considerato che in Italia ci sono moltissimi contratti del lavoro che non sono più stati rinnovati, considerato quella che è una situazione economica di grande difficoltà, per la prima volta è vero che si comincia a mettere qualche soldino in tasca agli italiani. Però attenzione, che non è che poi non mancano comunque nella finanziaria anche altre manovre, comunque mancano anche delle tasse, perché per esempio sappiamo che tra le varie risorse c'è, cioè, sì, da un lato dei soldi che sono stati ripresi dal prefetto, recuperati dal prefetto della spending review, ma c'è anche un aumento delle rendite finanziarie che passano al 20-26%, quindi molte persone o risparmiatori che magari hanno avuto anche gruzzoletti e che investono periodicamente, ecco, sanno che qua qualcosa dovranno lasciare. Però ribadiamo, grande interesse su questa manovra, soprattutto ci dispiace che comunque in questo caso non rientrano i pensionati. Poi c'è una revisione di quelli che sono gli ammortizzatori sociali, perché sappiamo che si supera per fortuna questa riforma Fornero, e anche qui c'è l'intenzione di vedere un po' gli effetti sociali, gli ammortizzatori sociali, definendo che sia la durata che deve essere massimo di 2 anni per un importo che sarà dai 700 ai 1200 euro nei confronti di chi ha lavorato con una certa continuità negli anni o anche negli ultimi mesi, ma non certamente avrà 32 anni di ammortizzatori sociali. Poi c'è anche una manovra abbastanza importante nei confronti delle imprese, che vanno comunque ad abbassare il 10% l'IRAP, che è una tassa molto odiosa che le imprese hanno sempre lamentato di pagare ingiustamente. Sono tutti conteggi che poi magari faremo verso la fine dell'anno, perché è chiaro che i primissimi effetti concreti li vedremo appunto nel corso del mese di giugno, come detto sulla busta paga di maggio, per quanto riguarda le imprese, poi con i loro tempi di pagamento delle imposte gli effetti sono a più lungo termine. Ci ritroveremo con l'Adico la settimana prossima con altri due argomenti da raccontare e da affrontare. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Nico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.